Benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Massimo Maisto, presidente di ARCI della regione Emilia-Romagna. Siamo qui per parlare del progetto Suner, On the Road Again. Parliamo appunto di una riapertura di musica dal vivo, un ritorno in tutta la regione. Ci può parlare brevemente di questo progetto, da dove è nato, quali sono gli obiettivi? Ma il progetto ha un obiettivo, ormai siamo al quarto anno, ha un obiettivo generale di sostegno alla musica dal vivo, di sostegno ai live club ARCI e soprattutto di sostegno alla creatività musicale dei nostri territori, band, artisti e artiste. E in questo caso però c'è un progetto supplementare, cioè quello di ripartire. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo perché gran parte dei live club oggi sono chiusi. La prossima settimana, dal mercoledì alla domenica, faremo 23 date in 14 spazi, che segnerà un po' per noi la ripartenza della musica dal vivo. Siamo ancora precari, non sappiamo ancora le capienze, se rimarranno ridotte, non rimarranno ridotte, però abbiamo deciso che bisogna ripartire con quello che si potrà e si riuscirà a fare. E abbiamo raccolto, dicevo, 14 live club che vanno dalla Romagna fino a Parma, sono un po' gli spazi più conosciuti e più significativi della nostra regione, e ospitiamo una decina di artisti, gran parte artisti dell'Emilia Romagna, qualcuno più conosciuto come Beatrice Antolini, qualcuno invece in via di affermazione, ma comunque adatti al nostro mondo e alla nostra dimensione. Siamo sicuri che la proposta avrà successo, perché abbiamo visto quest'estate, molti circoli ARCI hanno organizzato iniziative estive all'aperto, che i nostri soci, il pubblico, gli appassionati di musica hanno voglia di ripartire in sicurezza, si sono vaccinati, Green Pass, e quindi ripartiamo. Importantissimo il sostegno della regione Emilia-Romagna, perché è chiaro che in questa situazione di precarietà e di limiti di capienza un contributo e un sostegno pubblico è fondamentale. È assolutamente un segnale importante vedere un progetto che ha in 5 giorni ha 24 concerti, quindi un segnale molto forte per la ripartenza, un desiderio da parte di ARCI di dare anche un messaggio a livello nazionale. Sì, secondo noi sì, non ci piace fare i primi della classe, anche perché non lo siamo, però facciamo il nostro dovere e lo facciamo al meglio. Io credo che in questa fase una dimensione del genere non ci sia nel resto d'Italia, quindi è un segnale, ripeto, anche a livello nazionale, perché poi ci sono gli appassionati, ci sono musicisti, ma ci sono anche tanti lavoratori in questi spazi, quindi si deve dare appunto l'idea, la concretezza che si è sulla strada del ritorno alla normalità. Quindi si poteva fare un grande concerto, si potevano fare due date da specchietto per le allodole. No, noi abbiamo deciso 14 luoghi, tante date. Di fatto è un grande festival, perché più di 20 date in 14 spazi fanno di questa situazione il primo festival al chiuso del dopo Covid. Anzi, è particolarmente un trampolino di lancio per una stagione futura. Quindi si spera di andare in crescita con un progetto del genere. Certo, questi spazi fanno adesso chi fa 50 date all'anno, chi ne fa 20, ma diciamo che occhi e croce messi insieme questi 14 live club fanno 400-500 date in un anno. Ci vorrà un po' di tempo per ritornare a questo livello, ma ci torneremo. Quindi per noi questo festival Suner non è una cosa che finisce lì, è come un calcio d'inizio. Se fossimo in un qualunque sport, è un calcio d'inizio. Il nostro impegno è di continuare più di prima. Noi lanceremo una campagna che sarà proprio ARCI 2 punti più di prima, perché vogliamo proprio dare il segnale che noi siamo impegnati a non solo a tornare alla normalità, ma a fare di più, più cultura, più socialità, più stare insieme, più voglia di conoscere in questo caso la musica, ma in generale conoscere l'arte, la creatività, la cultura e passare belle giornate, belle serate insieme. Un progetto che porta una grande varietà di generi, di locali, di posti, di storia della musica anche regionale, per cui non vediamo l'ora di poter assistere e auguriamo il meglio per questo progetto.